A tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, tre spunti in particolare dal mercoledì internazionale. Il primato di Lippi, 31 partite consecutive senza sconfitte, dunque un nome memorabile come quello di Vittorio Pozzo è alle spalle. La vittoria dell'Inghilterra in Germania con una squadra zeppa di rincalzi, il che significa che con la nazionale di Capello bisognerà tornare a fare i conti e come, in ogni tipo di manifestazione a venire. Il debutto vittorioso di Diego Maradona sulla panchina dell'Argentina. Dei tre avvenimenti, personalmente, è proprio l'ultimo che mi ha regalato almeno un'emozione, con tutti quegli abbracci finali di Maradona a ciascuno dei suoi giocatori. 7 milioni di spettatori per 7 milioni e 089 mila per l'esattezza, share del 25,70% per l'amichevole Grecia-Italia di ieri sera. Il commento del neoprimatista di imbattibilità Marcello Lippi. Beh, penso che sia una serata da considerare positiva nel processo di crescita che abbiamo in programma, che abbiamo in mente. Abbiamo fatto una discreta partita, abbiamo cercato di vincerla, abbiamo fatto esordire ancora gente. La squadra greca è una squadra forte, è una squadra che sta facendo bene, è in testa al suo girone, ha perso una partita soltanto e stasera ha dimostrato ancora una volta tutte queste caratteristiche. L'allenatore ha fatto anche qualche esperimento. Io ritengo Toni un giocatore importante per la nazionale italiana. E quando uno, penso anche che quando uno fa gol sempre, ha sempre fatto gol in tutte le categorie, in tutte le squadre, in tutti i campionati, basta aspettare che poi lo fa il gol. La cosa che mi fa più piacere è che in questa striscia di risultati positivi ci sia stata una cosa veramente molto molto importante, come il campionato del mondo, perché la striscia positiva in se stessa conta poco se dentro non c'è una vittoria importante. Torneremo a parlarne, ad ascoltare altre interviste ai giocatori, i vostri commenti, come di consueto, al numero per intervenire in diretta che è l'800 24 00 24. Ma l'argomento di oggi è un altro, anzi gli argomenti sono altri e sono tanti. Perché? Perché per una curiosa coincidenza i quattro principali quotidiani italiani di stamane hanno dedicato ampio spazio ad altrettanti argomenti, come dire, collateral calcistici, con un connotato comune che è un pochino da orchestrina che continua a suonare sul ponte del Titanic. Allora vi faccio una breve rassegna stampa. Corriere della Sera, titolo nelle pagine sportive: da Venezia ad Avellino i soldi stanno per finire, Serie B e Lega Pro una crisi senza soluzione, i diritti televisivi e i 69 milioni versati dalla Serie A come contributo non bastano ancora per sopravvivere e cresce il rosso anche nella Serie C. Nei riquadri, 8 società di B su 22 non sono in regola con i pagamenti, 90 club in Lega Pro, la maggior parte di loro ha pagato solo per due mesi, 3.000 euro la mensilità media in B e in C, dai 1.500 ai 5.000 euro. Questo è il Corriere della Sera. Passiamo a Repubblica. Inter, nel 2008 rosso da 148 milioni, il totale di perdite in 4 anni diventa di mezzo miliardo di euro. E questa è la seconda. La terza, che si proietta in campo internazionale ed è insomma, di grande interesse per il mio e di grande possibilità di sviluppo, è questa. Sarkozy, il moralizzatore, spacca il calcio europeo. Questa è una pagina della Stampa. Il piano della UE sarebbe fuori club con troppi debiti, le big tremano, in particolare le big britanniche. Cos'è successo? È successo che Sarkozy è il presidente di turno della UE e a fine mese la Francia sottoporrà ai ministri dello sport comunitari la creazione di un organo di controllo comunitario, per l'appunto. L'UEFA è già d'accordo, forse ricorderete che Platini da tempo si sta battendo in questa ottica. Il nuovo organismo deciderebbe sulle ammissioni a coppe e campionati con criteri rigidissimi. Ci sono già delle date fissate. Il servizio di Gabriele Marcotti da Londra comincia così: e bufera sull'Europa del calcio a seguito delle proposte del presidente francese dell'UE, Sarkozy, nelle ultime settimane del suo incarico. Il 27 e 28 novembre a Biarritz si incontreranno i ministri dello sport dell'UE e a loro verrà chiesto di approvare un documento comune che contenga i principi elencati da Sarkozy. Se tutto andrà secondo i piani del presidente francese, due settimane dopo toccherà ai capi di governo. E in caso di nuovo ok, il pacchetto rimbalzerà alla Commissione europea. Ultimo, per ragioni di ospitalità, è l'articolo firmato da Marco Bellinazzo sulla prima pagina del Sole 24 Ore di stamane. Il titolo è «Allo stadio con il badge, nasce l'anagrafe del tifoso». Dopodiché, più in dettaglio, il servizio pubblicato all'interno parla di un obbligo per tutti i club dal 2009 di dotare i propri appassionati di tessera del tifoso, pena il mancato ingresso allo stadio. Una normativa su cui poi approfondiremo presto, visto che Marco Bellinazzo è qua con noi. Bentornato. Buongiorno a tutti. Senti, partiamo dalla concorrenza e poi arriviamo a quest'altro fatto. Partirei dalla stampa, cioè partirei proprio da questa iniziativa di Sarkozy, in cui mi sembra che Sarkozy faccia molto rima con Platini, no? Così come suggestione di partenza. E mi sembra che stavolta forse si cominci a fare un po' sul serio. Io non so se Sarkozy o qualcuno dei suoi ascolti questa trasmissione, perché ne avevamo parlato qualche settimana fa, ma un po' fa bene. Carla? Ci vedi Carla? No, Jean-Claude Pa. No. Abbiamo parlato dei debiti delle squadre europee, come i nostri ascoltatori magari ricorderanno, di questi debiti mostro, no? Soprattutto delle squadre inglesi, e ci siamo detti insomma che finché c'è qualcuno che paga va tutto bene, a meno che appunto in Europa non si cominciasse a pensare a un organismo internazionale che sovranazionale, sì, ecco, sì. Che possa fare dei controlli diciamo molto severi sui bilanci, e soprattutto se l'Europa si deciderà, ma poi a stabilire le regole uguali per tutti, le regole per esempio che dicano semplicemente che se una squadra ha un tot di debiti oppure ha un indebitamento patrimoniale che supera certe dimensioni, è una squadra che va considerata appunto in fuorigioco e quindi non può essere iscritta alle coppe o ai campionati, perché ricordiamo che l'indebitamento di una squadra significa grosso modo innanzitutto che magari la gestione non è proprio oculatissima, ma che quella squadra può permettersi dei campioni, di pagare degli ingaggi e quindi dal punto di vista sportivo avere dei indubbi vantaggi sulla concorrenza. È un problema di concorrenza, cioè il parametro che la UE ha sempre seguito o cercato di seguire. Io non so se la FIFA, se Blatter sarà tanto d'accordo visti gli scontri continui che ha con Platini, perché qui poi a un certo punto ovviamente è una questione di potere, chi decide sul calcio, se devono essere le singole nazioni a decidere, le singole diciamo federazioni, o se appunto si vuole delegare una parte della sovranità, certo, come è avvenuto a livello politico, a una struttura europea, con tutte le difficoltà che sono connesse a un cammino diciamo di integrazione sovranazionale. Questo è indiscutibile, infatti sarà probabilmente non sarà così breve, oltre che molto interessante. Anche perché appunto però non tutte diciamo le squadre, le nazioni che fanno, gli stati che fanno parte della UEFA fanno poi parte anche dell'Unione Europea, quindi sarebbe un po' difficile applicare per esempio alla Champions League gli stessi parametri e quindi imporli anche a stati che non fanno parte dell'Unione Europea se si decidesse di avere un organismo diciamo comunitario di controllo sui conti delle società. Insomma. Non sarà facile mettere d'accordo queste situazioni, però un dato di partenza c'è. Il dato di partenza, secondo me, è quella battuta che Platini fece all'indomani di quella magnifica finale di Coppa dei Campioni dello scorso anno, di quest'anno tra Chelsea e Manchester United, quando disse: io per la verità sono un po' stufo di vedere queste finali tra squadre così indebitate. Se noi andiamo a prendere le cifre di oggi, dei debiti della Premier League che arrivano a 3,2 miliardi di indebitamento complessivo, stiamo parlando di euro, non stiamo parlando. Queste sono sterline, sono 3,9 miliardi di euro. Scusa, quindi siamo oltre. Oltre. Allora, in milioni di sterline il Chelsea ha un debito attuale di 130, l'Arsenal di 380, il Liverpool di 440 e pare in particolare quello combinato peggio, il Manchester United addirittura di 964 milioni di sterline. Era il primo argomento. Visto che stiamo parlando di deficit, guardiamo in casa nostra. Arriviamo ai 148, ai 148 dell'Inter, che seguono, questa è la gestione 2007-2008, segue il brillante risultato operativo dell'anno prima, 2006-2007, che era di meno 204, quindi sono 350 milioni di euro, in questo caso non di sterline, di passivo in due anni. C'è poco da dire, nel senso che la gestione dell'Inter è ispirata, diciamo, a un criterio di magnanimità del suo presidente. Moratti considera questo, insomma, il suo giocattolo, se così possiamo dire, e finché non esistono, diciamo, parametri più selettivi che impongano, mi ripeto, ma insomma secondo me il concetto è questo, che impongano alle società di non indebitarsi oltre un certo limite, certo. E chi vuole spendere è libero di farlo, a patto appunto che possa pagare gli stipendi e possa garantire la copertura. In quel bilancio appunto che sarà approvato dal 30 giugno dell'Inter, il dato secondo me più significativo è il fatto che per ogni euro sostanzialmente incassato dall'Inter tra diritti televisivi e sponsor e merchandising c'è un'uscita di quasi 2 euro, di quasi il doppio, quindi l'Inter incassa la metà di quello che spende, insomma, grosso modo. Il bilancio dell'Inter è saldo, se vogliamo, dal punto di vista della patrimonializzazione, cioè del valore dei giocatori, visto che le società italiane non hanno stadi, come abbiamo più volte raccontato qui. È iscritta per 100 milioni la rosa, il valore della rosa dell'Inter, però appunto nella nota che accompagna il bilancio si dice che il valore poi complessivo è molto più alto, perché possibilità di vendere 2 o 3 giocatori servirebbe, come, a coprire molti di questi debiti, perché se vogliamo, insomma, se pensiamo a Ibrahimovic, già da solo rappresenta un bel asset, sì, diciamo, da poter vendere. È un discreto asset Ibrahimovic, effettivamente. Arriviamo al terzo ritaglio di oggi, è quello del Corriere della Sera. Da Venezia ad Avellino i soldi stanno per finire, e cioè sia in Serie B che in Lega Pro, non che abbiamo appena fatto un esempio della società pilota degli ultimi anni, no? Se parliamo di vittorie in Serie A, abbiamo detto di questo profondo rosso, non è meno profondo il rosso nelle categorie inferiori, a cominciare dalla Serie B. Purtroppo no, e le cronache locali ormai sono piene di racconti, diciamo, che evocano lo spettro del fallimento per le squadre, insomma, della Lega Pro. Molte non pagano gli stipendi, stanno chiedendo di rateizzarli o addirittura di ridurli. Gli introiti, diciamo, delle società sono quelli che sono, anche perché, insomma, il bacino di utenza spesso è molto limitato. La vera anomalia, se vogliamo, più che il costo dei calciatori in Serie C, che si può dire sia alto o meno, comunque sono professionisti, insomma. La vera anomalia, a mio avviso, è il fatto che ci sono ben 90 squadre nella Lega Pro, che se si aggiungono, alle oltre, insomma, 40 squadre che tra Serie A e Serie B rappresentano, certo, diciamo, la crema del calcio professionistico in Italia, significa circa 150 club. E per quello che la torta da spartirsi in Italia sono troppe. Sono alcuni anni che forse decenni che si va dicendo questo. Adesso credo che questa crisi mondiale stia ponendo il problema per in i liberisti ultimativi, per no? I liberisti puri, questo è il vero, diciamo, il vero palliativo, no? del mercato, cioè si tagliano i rami secchi, le società che non vanno bene, e restano in piedi soltanto le società gestite economicamente da, diciamo, in maniera pulita o razionale. Il problema è che in Italia, diciamo, il calcio non è legato soltanto a una gestione economica, a un obiettivo economico di chi acquista una società. Sappiamo benissimo, insomma, che avere una squadra di club anche sul territorio significa molto dal punto di vista politico, del peso che diciamo, la proprietà di un club calcistico dà all'interno di un territorio, il ritorno d'immagine. Però, ripeto, 90 squadre, nella Lega Pro c'è stato questo maquillage, no? È portato a cambiare il nome dalla Serie C alla Lega Pro, come se questo servisse a risolvere i problemi. Il numero delle squadre è rimasto quelli, i problemi economici sono rimasti quelli. E sono evidentemente aggravati da questa crisi economica che continua a crescere, di cui sinceramente nemmeno si intuisce, non solo non si vede la fine. Andrea da Vicenza scrive: avremo uno spalma debiti europeo. Ma Andrea, io non credo. Non credo, sono dei made in Italy queste formule qua, ho l'impressione. Non hanno abbastanza fantasia. No, io credo invece che vedremo qualcosa di diverso, e credo che tutti insieme ce lo dovremmo augurare. E primo intervallo di giornata, perché poi abbiamo invece l'altro argomento, quello made in Sole 24 Ore, che è quello dell'anagrafe del tifoso e della conseguente tessera del tifoso. Se Ibra diventa anche un asset, scrive Guido da Novara, allora è di sicuro a pallone d'oro questa è carina. Siamo arrivati, dicevo, al Sole 24 Ore. Il titolo all'interno: se manca la testa del tifoso, la Serie A rischia il fuorigioco. Il Viminale, cominci il tuo articolo, potrebbe mettere in fuorigioco tutta la Serie A o quasi. È una roba improvvisa, cioè un fulmine a ciel sereno, questo, se non ho capito male. Sì, di fatto la Lega Calcio è rimasta un po' sorpresa da questo comunicato stampa. Anzi, in realtà era una nota del CASMS, che è il Comitato per l'Analisi della Sicurezza e dell'Organizzazione Sportiva, in cui semplicemente c'è stato un passaggio, a mio avviso, epocale, no? Nella modalità di valutazione delle partite, della rischiosità delle partite, sì. Perché si dice semplicemente che a partire dal 1 gennaio 2009, quindi si dice che terminerà la fase sperimentale della tessera del tifoso il 31 dicembre. Non so quanti sapessero, io per esempio non lo sapevo che c'era una fase sperimentale della tessera del tifoso. L'esistenza se ne parla da un po', ma di questa fase sperimentale non era uscita, diciamo, in termini clamorosi questa notizia. In ogni caso, dal 1 gennaio il rischio delle partite e le relative restrizioni si valuteranno non solo ovviamente per la rischiosità della partita in sé, ma alla luce di questo nuovo criterio, cioè il fatto che la società, il club, abbia adottato, si dice, modelli di organizzazione e gestione idonei a scongiurare i comportamenti violenti. In particolare, appunto, si fa riferimento alla tessera del tifoso. Quindi traduco dal leguleio: se una società ha adottato la tessera del tifoso, sarà valutata, diciamo, una società più seria, i suoi tifosi saranno ritenuti dei tifosi, diciamo, non dei facinorosi, a prescindere, quindi scamperà molte delle restrizioni eventuali che il Viminale vorrà imporre per garantire la sicurezza negli stadi. Chi non ha questa tessera sarà invece valutato allo stesso modo come sta avvenendo adesso, e quindi con continue restrizioni, data la... Ecco, ma questo era noto a tutte le società, era la portata di tutte? A quanto mi risulta c'era stato qualche incontro tra la Lega e il ministro dell'interno Maroni, insomma, nel cercare di individuare delle soluzioni, no, al problema che è endemico della violenza negli stadi. E l'idea era quella di, appunto, valutare in questi mesi l'efficacia della tessera del tifoso, che era stata presentata il 30 ottobre scorso in occasione di Milan-Napoli, ecco, con una conferenza stampa. Sì, questo lo ricordo, però fammi capire, cioè il 30 ottobre viene presentata l'iniziativa Siro, del Milan, che ha questa tessera del tifoso, che l'ha venduta sostanzialmente insieme agli abbonamenti all'inizio anno o poco dopo. Oggi siamo al 20 novembre, cioè 20 giorni dopo viene detto che questa tessera dal 1 gennaio è indispensabile. Sarà indispensabile forse a partire dalla stagione 2008-2009, perché la Lega ha detto non siamo pronti, in grado, perché questa tessera, certo, ce l'hanno soltanto Inter e Milan, nessun'altra squadra ha questa tessera del tifoso. Ce l'hanno Inter e Milan per meriti propri, che così potremmo parlare una volta bene, perché si sono una volta scambiati le tessere invece che le plusvalenze. Probabilmente hanno capito che poteva essere la strada per evitare le restrizioni e non avere danni economici dai continui divieti, e quindi hanno adottato questo strumento, che può essere efficace. Insomma, non stiamo qui a discutere se è efficace o meno, discutiamo innanzitutto sul fatto che doveva essere obbligatorio dal 2008-2009 e sarà obbligatorio probabilmente dal 2008-2009. Fatto sta che diventa però da gennaio, cioè tra un mese, diventa il criterio prevalente sulla base del quale l'osservatorio dirà se un tifoso può andare a vedere una partita, può acquistare un biglietto o meno. Esattamente. Prendiamo il prossimo esempio: Inter-Napoli. Io sai che mi sono lamentato questa trasmissione perché non sono riuscito ad andare a vedere Milan-Napoli. Hai questo accento interista, ecco, infatti, che dice non potrò nemmeno andare a vedere Inter-Napoli perché sono stati adottati gli stessi criteri, cioè Si potrà andare a vedere Inter Napoli soltanto se si è un abbonato, se si ha la tessera dell'Inter, oppure se si è amico di un abbonato, di uno che ha la tessera dell'Inter, che potranno acquistare due biglietti e garantire per anche la, per l'altro, per gli altri. Io non so chi possa garantire per me, se c'è qualcuno che è così buono da garantire anche per me, io non lo farei. Ci penseresti almeno tre volte. Spero che per la tessera del tifoso, scrive Piero La Bergama, non serva un'altra password o almeno un codice PIN, perché ho finito lo spazio nella mia memoria. Beh, allora dovrà comprarsi uno strumento con una memoria più ampia, perché ci vorrà. Ci vorrà sicuramente. Finalmente la politica si intrufola nello sport con leggi serie. Buona fortuna a Sarkozy, scrive Andrea da Bologna, e questo lo sottoscrivo in pieno. Sentiamo due o tre ascoltatori su questa prima ondata di notizie, perché poi ne abbiamo altre, poi dobbiamo parlare di stadi, dobbiamo parlare di futuro, anzi eravamo partiti oggi per fare una puntata sugli stadi, la strigliamo la settimana ma non ci arriviamo mai perché c'è sempre qualcosa di più incombente prima, però dobbiamo ricordarci di dire, lo diciamo subito, che alle 17.45 di oggi la Juventus presenta ufficialmente il suo progetto di stadio, e quindi a suo modo oggi potrebbe essere una piccola data epocale, se vogliamo. Un progetto da 100 milioni di euro che si spera possa iniziare a cambiare il volto del calcio italiano e la gestione economica, ecco, sì, il concetto di patrimonialità in una società, e insieme anche il concetto di convivenza civile, eccetera eccetera, anche se questo poi dipende da contesti. Avere un proprio stadio alti. Significa poter organizzare una struttura che accoglie i tifosi due ore prima e li fa andare via due ore dopo, che gli dà assistenza, che gli dà un posto in cui mangiare, cose in cui comprare la maglietta ufficiale del club, insomma dare più introiti alle società. Certo. Gli ascoltatori che hanno chiamato per primi sono da Milano e da Verona. Da Milano Tarcisio, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Dica. Complimenti scontati per la trasmissione, ovviamente. Ascolti, volevo fare una considerazione sul primo argomento riguardante i bilanci. Era fatto un esempio che coinvolgeva l'Inter, ma vale per qualsiasi squadra, ovvero ha debiti per X milioni, ma i calciatori che valgono anche di più, mettiamo. Ecco, io volevo dire questo: mentre i debiti, come sa chiunque gestisce una società, sono certi, i valori degli asset, come sono stati chiamati, sono incerti, perché finché va avanti questo sistema da riformare, Ibrahimovic, Del Piero, Ronaldinho valgono quello che valgono. Ma nel momento in cui si mettessero le cose un po' più seriamente, i valori crollano, perché nessuno sarebbe in grado di pagare questi valori. Ecco che quindi resterebbero la montagna di debiti, mentre sui ricavi sarebbe tutto da vedere. Tarciso, le faccio rispondere da Marco, perché non, a occhio potrei rischiare, però no, è meglio non fidarsi. Vedevo Marco annuire. Sì, è esattamente quello che sostiene per esempio la stessa Inter, laddove dice che per questione di prudenza è scritto in bilancio il valore dei calciatori ad appena 100 milioni di euro, ma che appunto si può immaginare, ipotizzare sulla base del fair value, diciamo, per usare un termine contabile e fiscale, me lo si passi, cioè sulla base di quello che è il valore attuale, questi giocatori valgono molto di più. Ha perfettamente ragione, insomma, il nostro ascoltatore, che chiaramente se le cose precipitano anche per le squadre di club, se non c'è un acquirente, qualcuno che possa pagare determinate somme, il valore di Ibrahimovic, e questo è l'esempio che abbiamo fatto, potrebbe assolutamente crollare. Alex da Crema domanda, quindi io dovrei, visto che con gli amici organizziamo spesso trasferte per vedere partite, dovrei fare la tessera di tutte le squadre, visto appunto che con gli amici abbiamo questo debole? Ho paura di sì, almeno che, diciamo, nella regolamentazione, l'organizzazione dal prossimo anno, si spera con un po' più di calma, si stabilisca per esempio che in presenza, sempre dei tifosi del Milan, si potrà tranquillamente andare in trasferta anche in località che sono considerate pericolose, avendo la tessera del Milan, quindi potendo acquistare il biglietto per la partita in trasferta presso la sede del Milan, i punti insomma indicati dal Milan, avendo questa sorta di garanzia della tessera. Vediamo se riusciamo a ascoltare anche Paolo da Verona. Buongiorno. Garanzini, buongiorno Paolo. Allora io intervengo per la tessera del tifoso. Sì. Sarò molto breve e conciso. Bravo. Ho 46 anni e sono ultra per scelta e attivo della mia squadra, che è l'Hellas Verona. Sì. Allora, come ahimè, determinati ultra, nella nostra, tra virgolette, carriera di tifosi, io sono incappato in un daspo, d'accordo? A me, dalle notizie che noi sappiamo, magari il suo ospite sarà, per rilasciare questa tessera saranno valutati determinati criteri precedenti. E infatti mi auguro che non gliela diano, scusi Paolo, detto tra noi. Scusi, dottor Garanzini, lei però non sa perché mi hanno dato il daspo, dopo me l'hanno tolto perché perché il daspo, scusi dottor Garanzini, lo sa perfettamente, è un provvedimento preventivo. E dopo si viene a appurare che questo daspo io non ero meritevole, questo mi è stato tolto. Un errore giudiziario, insomma, è il paese nostro, gli errori giudiziari. Paolo, se può rimanga in linea, io però adesso, cioè Marco è prontissimo alla risposta. Il problema è che le quotazioni di borsa, ho l'impressione che sia un tale daspo universale una giornata come oggi che credo abbia la precedenza. Bello questo messaggio di Paolo da Prato. Buondì, non basta sentire i TG per rovinarci le giornate, vi ci mettete anche voi smontando il giocattolo calcio. La pallamano come messa, a proposito, non è male questa domanda di Paolo da Prato. Poi c'era un altro molto carino che adesso rintraccio, c'era un ascoltatore, un ultra collegato con noi. Paolo, c'è ancora? Assolutamente. Certo. Allora guardi, con sta tonnellata di pubblicità che si è beccato, lei ha già scontato una parte della pena adesso, però c'era Marco Bellinazzo che voleva... No, ma io volevo concludere un secondo, scusa. Ma voleva due informazioni da lei per poterle dare una risposta. Mi dica. Ecco, per esempio sarebbe interessante sapere quando lei è stato, diciamo... Daspato, ecco, bello neologismo. E quando il provvedimento è stato ritirato. Si parla di qualche anno fa. Sarebbe importante sapere quanto, poi le spiego perché. Più o meno. Sarà stato più di 10 anni fa. Più di 10 anni fa, allora lei, posso darle una buona notizia per cui... Sì. Potrà acquisire, diciamo, la tessera del tifoso. Buona fino a un certo punto, dica. Ecco, il mio concetto, scusate, è molto molto breve. Allora, io, Paolo, a 16 anni... Per una questione mia faccio un furto nel supermercato, in un supermercato vengo condannato, d'accordo? Poi ripeto, non teniamo questo discorso dei 10 anni, dopodiché io sconto la mia pena e praticamente faccio una carriera, divento, e a un certo punto viene fuori una legge che mi dice che per entrare in un supermercato ho bisogno di una tessera. Perché una volta 16 anni ho rubato nel supermercato, non mi dà la tessera per andare al supermercato, non mi danno la tessera. Cioè mi sembra che si stia, e qua veramente si potrebbe fare una puntata. Sì, la stiamo già facendo, Paolo, invece adesso asciughiamo un pochino e abbiamo capito il concetto, anche perché con tutta la simpatia possibile, adesso Marco lo risponde ancora, però non siamo ancora allo sportello reclami dell'ultra, tutto sommato. Marco, dicevi? No, e la funzione della tessera del tifoso dovrebbe essere quella, come dire, di prevenire l'accesso allo stadio da parte di soggetti pericolosi. Certo. E per esempio... la tessera del tifoso, almeno per quello che è emerso finora, non potrà essere concessa a chi ha subito un daspo o chi ha subito ovviamente condanne di carattere penale per fatti relativi a violenze negli stadi negli ultimi 5 anni. Questo è quanto, diciamo, finora è emerso, che dovrebbe consentire questa card, questo bancomat del tifoso, di poter anche controllare preventivamente chi, certo, va allo stadio. Certo. Chiaramente se uno ha compiuto, diciamo, dei gesti di violenza all'interno di uno stadio, ha ferito qualcuno e ha subito, diciamo, dei provvedimenti disciplinari, addirittura delle condanne penali, forse è un bene che rimanga fuori dallo stadio. Se poi si tratta di fatti risalenti, visto che c'è un principio, diciamo, costituzionale di recupero, diciamo, di chi ha sbagliato, la pena, come deve essere, deve servire a recuperare anche la dignità delle persone. Non si può condannare tutta la vita per un daspo subito a 16 anni, ma se uno è consono e abitué, diciamo, delle curve, ma in maniera non lecita, è giusto che rimanga fuori. Questo può essere un aspetto utile, ecco, della tessera. Non c'è nessun dubbio. Io spero che Paolo sia soddisfatto insomma, non soltanto del suo intervento, ma della risposta. Ripeto, a patto che questo non diventi lo sportello reclami degli ultra. Scrive Marco, e anche questo non è male: ho preso la tessera tifoso del Milan e sul retro c'è scritto Forza Italia. Significa che vale anche per la nazionale? Questa è, immagino sia una battuta, perché non mi auguro che sia una battuta. Io... non abbiamo ancora sotto mano. Io ne ho vista una di un mio amico e curiosato, perché poi funziona tra l'altro come una sorta di bancomat: tu puoi caricare dei soldi e acquistare con la tessera il biglietto, quindi sì, può essere anche un business, diciamo, per le società, certo, che ce l'hanno. Il problema è che, per esempio, questo mio amico mi dice: io non ho ricevuto alcun tipo di richiesta per quanto riguarda, diciamo, la mia fedina penale, diciamo, dal punto di vista, sì, dei possibili o passati comportamenti violenti. C'è un altro veronese in linea, poi torniamo e ci spostiamo anche su altri versanti o su altri riflessi. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno. Sarà mica un ultra che lei, eh? Come no, anzi, boh, vorrei dissociarmi comunque, va bene. Solo per dirle la mia esperienza, io da 4-5 anni ho ripreso a seguire una squadra di Londra, di calcio, di bassa o media classifica. La seguivo già 20-25 anni fa, in tempi ben peggiori. Quando ho richiesto un biglietto per vedere questa squadra, mi è stato, diciamo, l'unica condizione per poter andare allo stadio è stata l'acquisto, o meglio, l'iscrizione nell'anagrafe della squadra. Mi è stata rilasciata una tesserina, un badge. Su questa tesserina mi vengono caricati regolarmente i biglietti che io acquisto via internet in caso di disponibilità di posti. E io con questa tesserina accedo allo stadio in quel posto lì. Ho dovuto fornire tutti i miei dati anagrafici, ho quasi 50 anni, dove vivo, dove lavoro, eccetera. E con questa tesserina io riesco ad accedere allo stadio. 2 anni fa ho voluto portare mio figlio, nel giro di una settimana mi è stata recapitata via posta aerea una tesserina nominale anche per mio figlio, che ha 11 anni, e con quelle tesserine noi accediamo allo stadio. Ci acquistiamo i biglietti via internet, ripeto, in caso di disponibilità, e entriamo allo stadio. Io, ripeto, la squadra che vado a vedere è una squadra anche abbastanza... Grazie Stefano, dobbiamo stringere un pochino. Marco? Mi sembra che sia un'ottima esperienza, e quella che in realtà i club italiani vorrebbero appunto mutuare. Il problema è che, come al solito, in Italia si ha delle buone idee, degli obiettivi anche importanti, quello di limitare la violenza negli stadi, ma l'applicazione, quel modo in cui questo viene applicato, è sempre un po' farraginoso, e sembra, certo, un po' provinciale e artigianale. C'è anche un altro aspetto sull'applicazione, non più a monte ma a valle, che ha suscitato qualche fiera discussione in questi giorni, e mi pare in maniera non gratuita. Cioè il diverso trattamento che le tifoserie di Roma e Lazio ancora una volta hanno ricevuto rispetto ai trattamenti di altre tifoserie, senza entrare nel dettaglio delle altre tifoserie, ma insomma io credo che per la gravità e soprattutto per i precedenti, no, dei comportamenti, la sensazione diffusa nel paese che gli sconti alla capitale continuino e siano un po' più che congrui esiste, mi pare. Mi sembra che in generale, dopo che l'esordio del campionato ha visto gli incidenti di Roma-Napoli, questi famosi incidenti su cui la procura sta ancora indagando, sì, e per i quali, diciamo, c'è sempre qualche margine, diciamo, di dubbio, laddove appunto i tifosi napoletani, che certamente non sono dei santi, in particolare quelli che c'erano andati, ma hanno comunque protestato in parte la loro innocenza, ed è stata applicata severamente una sanzione, la chiusura delle curve, il divieto di trasferto per tutto il campionato. Quell'esempio, diciamo, di rigidità, di severità che il Viminale voleva dare, mi pare non sia stato altrettanto, diciamo, seguito. Seguito in queste giornate. Salvo per le chiusure preventive e le limitazioni, sì, preventive, sì, di cui abbiamo, esatto, parlato, e che stanno di fatto però allontanando i tifosi buoni, chiamiamoli così, certo, cioè i tifosi che, certo, nulla hanno a che vedere con fatti di violenza. E quindi, a parer mio, e mi pare che sia confortato da te, come sempre in Italia si è partiti, in questo caso la prima giornata, insomma, si parte dalla tolleranza zero e poi la tolleranza diventa 2, 3, 11. Tommaso, provincia di Sassari, buongiorno. Sì, buongiorno, che volevo intervenire per quanto riguarda la tessera del tifoso, sì. In particolare volevo dire questo, cioè, secondo me è mancato, a parte queste soluzioni abbastanza complesse, secondo me anche difficili da mettere in atto, una serie di iniziative un po' più semplici. Cioè, si parla sempre del calcio inglese, dell'esempio inglese come riuscita dell'Inghilterra, come riuscita a debellare il fenomeno hooligans, però delle, alcune cose che sarebbe stato semplicissimo soltanto copiare non state messe in atto. Faccio riferimento per esempio al divieto che c'è in Inghilterra di portare bandiere, bastoni, striscioni e quant'altro possa essere utilizzato non soltanto per supportare la propria squadra ma anche per recare offesa al tifoso avversario. In Inghilterra inizialmente probabilmente se ne saranno pure lamentati, ma ormai sono abituati e non mi sembra che se ne lamenti più nessuno di questa cosa. Quando è stata fatta una proposta del genere in Italia, subito levata di scudi, c'è qualche televisione, qualche programma in particolare che ha preso questa idea come un attacco alla trasmissione e al programma stesso, anziché pensare che magari è meglio rinunciare a una rubrica satirica che potrebbe essere sostituita con qualsiasi altra proposta diciamo mediatica in cui piuttosto che appunto l'occasione dei tifosi di utilizzare degli strumenti. Certo, Tommaso, c'è il traffico, la ringrazio, il concetto è molto chiaro e da parte mia condivisibile perlomeno. Dobbiamo correre perché insomma, la tempistica è quella che è, non senza che Marco Beninazzo abbia dato una risposta a Tommaso da Sassari che ha fatto un'osservazione interessante. Assolutamente, c'è un divieto di portare gli striscioni negli stati che è stato approvato nel pacchetto diciamo Amato Pisano, approvato dopo gli incidenti di Catania dello scorso anno. In sostanza per portare dentro gli striscioni bisognerebbe essere autorizzati e soprattutto mostrarne il contenuto. In Italia però, fatta la legge, trovato l'inganno, spesso accade, vediamo sugli spalti degli striscioni, spesso anche insomma violenti, offensivi, ingiuriosi, che non si sa come riescono a entrare e poi è difficile anche trovare i colpevoli, chi li ha portati dentro. Certo, famosa tolleranza zero anche da questo punto di vista. Dato che con la presenza di Marco Beninazzo in studio ho un po' di nostalgia di una buona cadenza partenopea, c'è la rubrica subito dei Sembra Ieri di Nicola Filippone. Sembra ieri. 20 novembre 1974. È da dimenticare la prima della nazionale di Bernardini nelle qualificazioni agli europei del 76. A Rotterdam gli azzurri perdono 3-1 contro l'Olanda, vicecampione del mondo. Nell'occasione debuttano due giocatori. Il mediano del Napoli Andrea Orlandini, a cui tocca l'ingrato compito di marcare un Cruyff scatenato, autore di una doppietta, e il giovane talento della Fiorentina Giancarlo Antognoni, che confeziona l'assist per il gol dell'illusorio vantaggio di Boninsegna. Diversi i destini in maglia azzurra dei due esordienti. Mentre l'esperienza di Orlandini durerà lo spazio di 3 gare, Antognoni diventerà un pilastro della nazionale, di cui farà parte per 10 anni, laureandosi campione del mondo e mettendo insieme 73 presenze e 7 reti. Visto che al giorno d'oggi clonano bancomat e carte di credito, scrive Paola, che hanno sistemi di protezione eccellenti, pensate davvero che non riescano a riprodurre queste teste del tifoso? Ma io non ci penso proprio a non pensarlo, sono certo che... Napoli non c'è ancora la testa del tifoso per il club, ma mi risulta che ci sono già le tessere clonate, ma no, cioè, sta per restare in aria. No, siamo sempre avanti rispetto a... no? Quindi questo è matematico, poi insomma... Bisogna studiarla bene questa faccenda. Roberto ha chiamato da Padova, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io ho 44 anni, ero un bambino di 10, siamo tifosi milanisti molto molto leggeri. E ho cominciato a studiare la carta che propone il Milan per poter entrare allo stadio e per poter acquistare i biglietti. Premesso che sono d'accordo su tutto quello che viene fatto, compresa la carta per impedire l'accesso ai facinorosi, perché andare allo stadio mai sia più paura che andare da qualsiasi altra parte in certe situazioni. Però per come è stata studiata, io che non sono cliente della banca che emette quella carta, mi trovo dei costi applicati che sono esorbitanti. Costi per la carta, costi per la ricarica, costi per il prelievo, tutta una serie di ammenicoli per cui utilizzandola una volta ogni tanto e per poter andare a vedere la partita come divertimento, ho la netta sensazione che sia l'ennesimo sistema per grattare qualche soldo alla busta paga dei lavoratori dipendenti, insomma. Roberto, è di nuovo uno di quei casi in cui Marco Beninazzo sta annuendo con convinzione. Sì, abbiamo detto che questa è una sorta di banco, ma del tifoso, così è stata definita quando è stata presentata, e dovrebbe servire appunto a pagare le partite, può essere ricaricata, insomma, un po' come si fa anche con le tessere dei telefonini. E chiaramente, come tutte queste strumentazioni elettroniche, hanno dei costi e effettivamente poi uno si può fare anche due calcoli e capire se c'è una convenienza ad acquistarli o meno. Cosa che non è detto, si possa verificare. Parlerei un attimo di stadi, perché? Perché doveva essere l'argomento della puntata di oggi, poi superato, salvo l'annuncio e lo strillo di questa presentazione di stasera a Torino. Poi c'è sempre qualcosa di più attuale. Comunque, che gli stadi italiani e francesi siano i più vecchi d'Europa e i meno funzionali è confermato da uno studio presentato a Parigi dalla Lega Calcio Professionisti francese e dall'Associazione Europea per la Gestione degli Stadi. Nell'ultimo decennio, in base a questo studio, in Italia sono stati rinnovati solo due stadi, mentre quelli costruiti o modernati in Francia sono stati quattro. Si tratta dei due paesi fanalini di coda in Europa, perché la Germania ha effettuato lavori di ristrutturazione in 13 stadi, l'Inghilterra in 12 e la Spagna in 9. Aggiungerei, Marco, un aggravante assoluto per noi, confronto Italia-Francia, che i nostri stadi sono stati rinnovati o in parte ricostruiti o costruiti nel 90, ed è meglio che stendiamo un velo. I loro sono del 98, dell'ultimo mondiale, quindi in ogni caso sono già di un'altra generazione. Evidentemente, noi abbiamo perso la grande occasione nel 1990 con i mondiali di impiantare appunto delle strutture già moderne che potessero consentire già una gestione economica più dinamica da parte delle società. Si aspettava questa ulteriore grande occasione del 2012 con l'assegnazione degli europei di calcio, che poi abbiamo visto sono finiti nell'est Europa. Si sta cercando ora in qualche modo di trovare i fondi per ristrutturare gli stadi, per costruirne di nuovi. Le società si stanno muovendo. Si parte però appunto da una situazione in cui tutti gli stadi italiani sono di proprietà dei comuni, tranne lo stadio olimpico, che al CONI, certo. E l'unico stadio privatizzato in Italia è stato quello di Reggio Emilia, quando la Reggiana è balzata agli onori della Serie A. Mi risulta insomma che non sia un esperimento riuscitissimo. No. Lo stadio del Giglio no. Anche perché insomma le sorti sportive insomma non hanno arriso alla squadra alla Reggiana, per usare un eufemismo. Abbiamo anticipato, sì. Scusami, che c'è stata la presentazione di questo disegno di legge la scorsa settimana, bipartisan, quindi con qualche possibilità di essere approvato. Il problema sono i soldi, ovviamente, non inutile girarci troppo attorno. La Juve ha fatto questo investimento, farà questo investimento di oltre 100 milioni di euro per costruire un nuovo stadio, verrà presentato oggi, come hai ricordato prima. Può essere il primo passo, forse. Certo. Cristiano ha chiamato da Genova, buongiorno. Buongiorno Gigi. Dica. Io mi collego un secondo dall'argomento della giornata. Sì. Tempo fa, circa un annetto, avevate parlato in trasmissione di un progetto, di un disegno di legge che praticamente, se fosse entrata in vigore, avrebbe impedito alle società di calcio di far usufruire praticamente dei propri debiti alle holding alle quali fanno capo. Non so se lo ricorda. Sì, sì, sì. Non si è detto niente. Non è caduto nel vuoto. Non è caduto nel vuoto, semplicemente quello era un emendamento inserito nella scorsa finanziaria che impediva appunto di considerare le perdite fiscali delle società che appartenevano alle holding, quindi società sportive che appartenevano alle holding, e quindi di scalarle dalle tasse. Quell'emendamento a un certo punto del percorso parlamentare è stato ritirato, è sparito, per cui tutto è tornato come prima, per cui le società sportive che appartengono a holding, che producono perdite, fanno sì che le holding possano, diciamo, portare in bilancio queste perdite e quindi pagare meno tasse, sui ricavi, quando ce li hanno. Cristiano, congratulazioni vive alla memoria sua e ovviamente anche a quella di Marco Bellinazzo. L'ascolto la sera dalla Cina via web, scrive Leonello Bosco. Non si meraviglino, a proposito della puntata di ieri, quelli che si chiedono perché Zoffo e Rivera non sono mai arrivati ai vertici calcistici. La griglia di accesso è la stessa della politica. Mi sembra una buona chiosa. Mi sembra anche sia il momento dei saluti e dei ringraziamenti a Marco Bellinazzo, a tutti voi che avete ascoltato e che siete intervenuti, a Fabio Cantadoni in regia, a Flavio Suardi in redazione, Giornale Radio.